quasi le 12:30, Radio Onda Rossa. L'avevamo annunciato, un collegamento con un portavoce dei comitati del No, esponente della Confederazione Cobas. Diego, ciao. Ciao a tutti. E allora parliamo dunque della vertenza Fiat, che vede impegnati domani e dopodomani i lavoratori in questa scadenza referendaria. Intanto, Diego, direi di svelare questo retroscena, perché stamattina su tutti i quotidiani, su molti quotidiani, anche sul Manifesto, in un articolo di Antonio Sciotto, si diceva insomma che i Cobas avessero posto la questione dello slittamento del referendum. Poi in realtà sappiamo che ciò non corrisponde al vero. Ma diciamo che è soprattutto una melina della CISL, la quale effettivamente da un lato si trova molto probabilmente in grosso imbarazzo in questo momento e sta, come dire, attuando tutta una serie di giochetti, fra i quali per esempio c'è stato questo. È ovvio che, allora, premesso che la data della consultazione non è che l'hanno deciso le organizzazioni sindacali, l'ha deciso la Marchionne, l'ha deciso la Fiat, questo è una cosa ormai assolutamente evidente. Ieri comunque, un po', diciamo così, disturbante, si è giocata questa carta per mescolare un po' le acque e per altro verso anche un po' turbato dal fatto che ci sarebbero state a ridosso delle votazioni delle assemblee convocate solo dalla Fiome, a cui noi comunque parteciperemo, si è trovata come dire così a cercare di emettere qualche lamento o qualche cosa, e quindi ha fatto prima questa proposta di slittamento della data, alla quale i nostri hanno detto vabbè, insomma, vogliamo slittarla fino a martedì di prossimo, abbiamo più giorni da fare campagna, però non c'è problema, insomma. E poi però quando si è andato il voto ovviamente ha svelato le carte e si è astenuta, insomma. Quindi i nostri sono rimasti assolutamente esterrefatti, hanno detto vabbè, insomma, i nostri membri di comitato elettorale sono di beh, non si aspettavano questi giochetti fatti in questa situazione, e però ne abbiamo preso atto. Però ecco, dopodiché ovviamente tanti giornali si sono messi a sfrugugliare su questa cosa, cercando insomma di in qualche modo di mettere delle note di colore, però questo fa parte, diciamo così, della disinformazione massmediatica, ecco. D'accordo. Allora, altro senti, elemento di disinformazione massmediatica è quello che sarebbero apparse su alcuni cartelloni di Torino delle frasi aspre contro Marchionne firmate con degli inneggiamenti alla BR. Tutto questo è assolutamente falso, non c'è mai stato niente di una cosa del genere, se lo sono completamente inventate. Tutto quello che c'è stato sono alcune frasi, fra l'altro anche abbastanza morbide, perché mandare a fanculo Marchionne, insomma, lo facciamo quotidianamente in tutti i nostri cortei, in tutte le manifestazioni, siglate da una stella rossa che è, come dire, legittimamente antagonista, no? E che non ha niente a vedere con il simbolo della BL. Quindi addirittura anche queste cose qua sono arrivate. Eh sì, certo, lo abbiamo notato, tra l'altro ne avevamo anche parlato poc'anzi di questo risvolto ulteriore, no? E deformante, di quanto i media possano deformare, partire pretestuosamente anche da questi particolari per montare su casi di pericolo e di allarme terrorismo. Piuttosto, Diego, insomma, volevo chiederti di dirci un po' insomma, come la vedi questa situazione, insomma, dai, allora, servizi che abbiamo visto in questi giorni sembra che c'è una discussione. Aspetta, ti dicevo, volevo dirti, dai servizi che stiamo vedendo, anche i telegiornali, si vede che c'è una discussione molto vivace tra i lavoratori, anche fuori dai cancelli, no? Quali sono, volevamo capire, gli argomenti che pesano di più in favore di una o dell'altra ragione? C'è ad esempio un aspetto che mi sembra essenziale, che tra l'altro voi state a sprombattuto mettendo in discussione, cioè la questione delle assunzioni, perché poi si sta parlando di questo investimento del piano industriale, vero o presunto che sia, ma poi c'è un altro problema, che è quello della garanzia per chi oggi si trova lì a Mirafiori di essere assunto negli Agnucco, e sappiamo che questa garanzia in realtà non ci sta, soprattutto per alcune frange di lavoratori, no? Sì, voglio di essere breve, ma di toccare tutti i punti che mi hai chiesto di su quale esprimere appunto il parere. Allora, la prima cosa, il ricatto è forte, è fortissimo. La tensione che c'è in questi giorni non è solo una tensione derivante dalla contrapposizione che ovviamente si verifica quando c'è un appuntamento così, così importante, ma è ovviamente attraverso tutti i lavoratori, perché è chiaro che il ricatto diretto e immediato fatto in questa maniera così violente e arrogante sul posto di lavoro lascia effettivamente disorientati, no? Quelli che ovviamente sono purtroppo tanti, insomma, no? Non hanno una abitudine alla militanza, o comunque come dire, se fanno gli scioperi magari vanno dietro al nucleo più convinto, insomma, no? Oppure si ritirano in se stessi nei periodi di magra. Quindi i giochi sono tutti aperti. I giochi sono tutti aperti perché ci sono stati ovviamente dei segnali positivi. E quali sono questi segnali positivi? Hanno tentato di fare una nuova marcia di 40.000, ma non ci sono riusciti. E questo è un dato gold. Hanno tentato in qualche modo di come dire, affievolire la resistenza delle organizzazioni che hanno che vedono ancora nel conflitto l'elemento centrale e nella tutela del lavoratore indipendentemente autonomo da tutte le altre come compatibilità l'elemento fondante della loro resistenza. Ti posso dire che nonostante le dovute differenze, nonostante anche una certa arroganza di organizzazione, però la FIAM si sta comportando abbastanza bene in questo periodo e sta dando anche lei tutto quello che può dare. Terzo elemento, ci sono anche dei segnali per cui se prima erano tronfi e sparavano cifre del 90%, oggi sono molto molto molto più cauti, e addirittura la CISL fa quelle menine che ha fatto ieri dall'altro lato. Bonanni dichiara che, insomma, se dovesse per malaugurata cosa votare prevalere il no, lui penserebbe addirittura di ritirare la firma. Poi dopo, vabbè, ovviamente dice, però questo non accadrà. Quindi noi da parte nostra non facciamo previsioni, diciamo semplicemente che fino all'ultimo faremo il possibile per dare fiducia ai lavoratori che un percorso alternativo c'è, e per altro verso denunciare che questi investimenti, questi progetti di sviluppo, questo piano industriale è assolutamente e dichiaratamente presunto, ma non ha niente, nessuna consistenza. E soprattutto non garantisce nessuno in nessuna forma. Tu parlavi dell'assunzione. Ebbene, non c'è nessuna garanzia di automatismo rispetto ai lavoratori delle carrozzerie che al passaggio nella new company, perché l'accordo non lo prevede e parla esclusivamente di fabbisogno aziendale da soddisfare in via prioritaria con i lavoratori di Mirafiori. Questo è italiano, l'italiano lo sappiamo leggere tutti, significa che, come ci sono state altre precedenti esperienze, per esempio la AGES di Asti, c'è una parte che metti un 30% che resta fuori e un 70% che viene assunto. Queste percentuali le faccio non a caso, perché a Mirafiori il 30% del personale non è solo in qualche misura anziano, ma è anche usurato, ovvero ha limitazioni, ha prescrizioni, può lavorare in certi posti di lavoro e in altri no. Ora, questi posti di lavoro riservati ai cosiddetti inidonei, cioè quelli che hanno subito delle patologie dovute alla fabbrica, nella nuova fabbrica non ci saranno più e dovranno lavorare con meno pause, più ore al giorno, per più giorni a settimana. Dovranno essere sempre a disposizione del padrone. Questi lavoratori, quindi almeno il 30%, non potranno fisicamente entrare nella nuova fabbrica, e questo è un altro elemento per cui diciamo che non è garantito assolutamente il posto di lavoro. Terzo elemento, non è garantito neanche agli altri, perché non c'è nessun progetto reale, c'è semplicemente il progetto di un vetturone, un grosso Dodge della Chrysler, la macchina più grossa, che consuma di più, che costa di più, che ha meno mercato e che viene dismessa da tutto il mondo, soprattutto dall'America, e che dovrebbe essere venduta proprio nei posti dove viene dismessa e ne hanno i magazzini pieni. E questo è un altro elemento per cui il piano di Marchionne è un piano dichiaratamente falso, smaccatamente una presa in giro. E noi stiamo puntando in queste ore, in questi ultimi momenti, soprattutto su quei lavoratori che magari sarebbero anche disposti a chinare la testa e rassegnarsi, perché magari l'hanno fatto per la maggior parte della loro vita, a fronte comunque di continuare ad avere un posto di lavoro che sarà. Che sarà certamente peggiore, non avranno più la notte fissa, non avranno più i turni garantiti, però che comunque viverà mantenuto. Neanche questo è vero, soprattutto questo non è vero. Senti, la Fiat, insomma, vorrebbe imporre, Diego, un modello contrattuale che soprattutto poi, se si va a vedere la regolamentazione di alcuni istituti importanti, no? Come la malattia, ad esempio, con questa questione dei primi giorni, i primi 3 giorni di malattia, propone, insomma, un modello che praticamente è assai vicino, anzi ricalca quello che abbiamo potuto incontrare negli anni passati nei posti di lavoro cosiddetti atipici. Siamo davvero, insomma, al giro di boa, e cioè quella strada di sperimentazioni che magari ha toccato soprattutto alcuni luoghi di lavoro e che è andata ad aggredire istituti importantissimi, conquiste delle lotte dei decenni passati, si era già sgretolata appunto all'interno di questi luoghi di lavoro. Ora il giro di boa è rappresentato dal fatto che anche nel posto di lavoro ex garantito ormai questi istituti, insomma, devono essere cancellati. Sì, allora, ci sono 3 elementi che sono consistenti in questo accordo. Il primo, da non sottolineare, che è l'aumento esasperato delle ore di lavoro, delle ore di straordinario, dell'impegno in fabbrica, quindi della sussunzione del lavoratore alla macchina. Questo è un primo elemento fondante, che non è secondario. Il secondo elemento è che, dovendo stare più ore in fabbrica, facendo molta più fatica, essendo molto più sfruttato, non hai più neanche il diritto di ammalarti, perché la malattia non ti verrà pagata, ma soprattutto, se ne farai troppa, verrai buttato fuori. Il terzo elemento, che non potrai più difenderti, perché non potrai più avere un sindacato. Infatti, quello che emerge in questi giorni, che sotto attacco non è la FIOM, sotto attacco è il diritto dei lavoratori a decidere e a votare i propri rappresentanti sindacali in fabbrica. Questo accordo cancella qualsiasi possibilità di questo tipo e assegna esclusivamente a dei delegati di nomina quello che è la possibilità di avere spazi in fabbrica. Tutti gli altri, la FIOM, noi, qualsiasi altro che vorrà essere autonomo rispetto ai desideri e ai programmi del padrone, non potrà fare alcunché. La democrazia sparirà completamente al 100%. E oltretutto non potrai più, secondo questo accordo, fare sciopero. Non potrai più, non sarà più garantito l'esercizio di un diritto costituzionale, e il fatto che uno faccia sciopero o non rispetti una delle regole contenute nell'accordo potrà essere, se reiterato, motivo di licenziamento. Quindi ogni tutela, essendo praticamente licenziamento ormai libero e venendo a cadere tutti i presupposti, ovviamente significherà che di diritto non ne hai assolutamente nessuno. Tutto questo per fare che cosa? Si ritorna a quel... Tutto questo per ovviamente iniziare a distruggere, a colpire tutti i residui diritti che la classe operaia, che il movimento dei lavoratori, che i produttori hanno in Italia. e anche per compiere, diciamo così, la vittoria completa, lo sbandieramento del lavoro, del valore del lavoro, della valorizzazione di quello che è l'elemento produttivo, e sostituirlo con l'arroganza, sostituirlo con la finanziarizzazione spinta, sostituirlo con quei meccanismi virtuali di dominio che sono all'origine praticamente delle crisi, dell'ultima crisi, delle crisi che ben presto ci toccherà di nuovo assistere. Il progetto di Marchionne è essenzialmente un progetto di lanciare delle nuove prospettive virtuali che per breve tempo, per poco tempo, gli garantiscano dei vantaggi, diciamo così, alla speculazione finanziaria sulle borse, soprattutto orientali, o comunque un meccanismo di questo tipo. Per questo si è accaparrato il consenso del più grande sindacato americano, perché guarda caso è padrone, non è un sindacato, è un doppio padrone, perché ha i 2/3 delle azioni della Chrysler. Ebbene, questo è il meccanismo che vorrebbe portare anche in Italia, e cioè una condivisione del ruolo di padrone con le organizzazioni sindacali e sullo sfondo una finanziarizzazione spinta e una virtualizzazione del profitto, che per loro sarà per brevi periodi consistente, tanto poi quando le bolle scoppieranno e la crisi diventerà più forte e più drammatica, a pagarla saranno sempre solo i lavoratori. Ebbene sì, tra l'altro poi il dibattito televisivo e dei giornali punta sempre sul confronto tra conservazione e modernità, come al solito Marchionne viene sempre presentato come l'artefice della modernità e di relazioni industriali più moderne, poi insomma quello di cui ci accorgiamo è che costui propugna di fatto un ritorno all'antico, perché che i sindacati, insomma, collaborativi e docili in realtà in fabbrica c'erano ad esempio negli anni 50 qui in Italia. Magari c'è l'ulteriore adeguamento ai tempi, come dicevi tu, e cioè il sindacato che riesce anche a cogestire, no, lo sfruttamento operaio attraverso ingressi di singoli esponenti all'interno dei CDA, poi per il resto davvero si ritorna all'antico con sistemi di sfruttamento intensivo, oltre che di allungamento delle stesse giornate di lavoro, degli straordinari, dei turni, dei ritmi e quant'altro. Quindi altro che modernità, insomma, le ricette davvero sono vecchie quanto è vecchio il capitalismo, si può dire, no? Senti, l'ultima cosa, Diego, chiaramente vediamo come andrà il referendum, ma c'è da valorizzare ciò che si è costruito fino a qui, al di là del risultato referendario, credo che su questo non ci siano dubbi, no? Sì, certo, ci sarà qualunque sia il esito del referendum, anche perché dopo, insomma, non è che a quelle condizioni comunque con modalità estremamente aspre. Ormai dobbiamo renderci conto che i tempi e i contenuti delle prossime battaglie non saranno dilatati, non saranno attenuati, non saranno, diciamo così, distratti, ma saranno sempre più consistenti e concentrati. E quindi bisogna cominciare ad attrezzarsi. Questa battaglia condotta in Fiat dovrà essere la battaglia che poi a brevissimo condurremo in tutti i posti di lavoro, mettendo veramente tutti i lavoratori, pubblici e privati che siano, di fronte a una realtà che è una realtà che vogliono a un certo punto, da una parte togliersi qualsiasi residuo diritto, dall'altra porre le basi anche per l'annullamento di qualsiasi ipotesi solidale che, unitaria, ma ricondurci all'interno delle singole fabbriche, dei singoli uffici in logiche mini aziendaliste e separate e ovviamente perdenti. Quindi ben venga la giornata, per esempio, prossima del 28 gennaio, in cui la FIOM ha dichiarato lo sciopero generale dei metalmeccanici, ricevendo una porta chiusa in faccia dalla CGIL, perché la Camusso andrà a Bologna a parlare in piazza con Cofferati, ma tutto il resto della CGIL, a parte i metalmeccanici, andranno a lavorare. Noi come Confederazione Cobas abbiamo dichiarato per quella stessa giornata lo sciopero generale di tutte le categorie e cercheremo di fare la nostra parte portando in piazza tutte le persone che potremo sui contenuti che ci sono propri, che sono contenuti ovviamente alternativi a questi nuovi progetti di massacro del lavoro, di massacro del diritto, di massacro della Costituzione, di massacro, diciamo così, della possibilità solidale di aggregarsi, difendersi, tutelarsi, ma anche contro quello che è all'origine di tutto questo, di tutta questa situazione, e cioè la concertazione sindacale, e cioè praticamente l'illusione che arrivare a firmare patti con il padrone ti possa garantire per sempre da quello che è il suo arbitrio, da quello che è la sua arroganza. Non è assolutamente vero. Il meccanismo che deve essere sempre ben presente e sempre, diciamo così, l'aspetto che ti deve vedere sempre consci è che il rapporto con i lavoratori deve essere sempre assolutamente mantenuto in maniera diretta, senza mediazioni, senza influenze esterne, senza diciamo così, vincoli partitici, aziendali o diciamo così, compatibilità o altre compatibilità capitalistiche a cui bene o male tutti questi interessi rimandano, ma deve essere vivo, diretto e soprattutto deve avere coraggio che se anche siamo soli, siamo tanti e non abbiamo nessuna intenzione di farci seppellire. Va bene, allora Diego, ti auguriamo una buona giornata e a risentirci per commentare, insomma, i risultati. Dico solo questo, che come Confederazione Cobas abbiamo convocato qua a Torino per sabato mattina, giorno 15, un convegno nazionale in cui ovviamente la Fiat sarà al centro di questo dibattito, di questo momento di riflessione collettiva a cui abbiamo chiamato tutti praticamente compagni, amici, interlocutori di Torino. Se andrà bene sarà un momento in cui festeggeremo, se andrà male sarà un momento in cui comunque non ci perderemo in alcun scoramento e partiremo da quelle che saranno le percentuali ottenute per andare avanti per lo sciopero del 28, per la battaglia che quest'anno, se dicevo, come sarà durissima, che è per ricostruire quel movimento dei lavoratori che dovrebbe imparare un pochino dagli altri movimenti come quello della Nottavo, come quello dell'Acqua, che sono risultati vincenti o comunque hanno ottenuto dei risultati perché hanno fondato su se stessi, sugli obiettivi che si davano, la ragione della propria esistenza e le modalità per prendere le decisioni e non si sono fatti condizionare da nessun altro. Va bene, certamente, insomma, la strada all'orizzonte non può che essere quella, ma d'altra parte, se poi alla fine prevarrà il sì nel referendum, le condizioni, soprattutto i margini di manovra per lottare da un punto di vista politico e sindacale nel posto di lavoro in Fiat saranno così ristretti che in un modo o nell'altro, insomma, occorrerà vedere gli sviluppi, i comportamenti operai, come si andranno a qualificare, quali saranno, perché poi bisogna anche vedere questo. Senti Diego, a presto, ciao. A presto, che Allah ce la mandi buona. Ciao, ciao, ciao, grazie.